Spezzami, spezzami il cuore, come una volta, come tu sapevi fare un tempo. Parlami, parlami amore, dammi risposta, quella che io non ho da dire adesso. Devo dirti qualche cosa, dentro ho una strana sensazione che non so capire, ma è inutile negare. È difficile spiegare, è una fitta nebbia nei pensieri. Tutte le parole si intrecciano confuse, sai, dei me non passano. Dentro ho una strana sensazione. Spezzami, spezzami il cuore, come una volta, come tu sapevi fare un tempo. Parlami, parlami amore, dammi risposte, quelle che io non ho da dire adesso. C'è silenzio nel mio cuore, sento che silenzio nel mio cuore. Quello che ho da dire in lui vuole gridare. È impossibile guarire dalla morte lenta dei pensieri. Guarda le mie mani, già sembrano due rami. Sai, in me non credono in tanti, ma nel mio respiro c'è una. Servono i pianti, i segni sul viso, quando l'anima li mostra, è dentro noi. C'è una ladra indifferenza in noi, c'è qualcosa che dimentica, non lo sai. È una strana sensazione, senti, è una strana sensazione. Come tu sapevi fare a tempo.